Roma Trastevere, 18 febbraio 1970. Caro Eleuterio, la casa che mi vide bambina oggi mi vede amareggiata. Il nostro bisticcio di ieri mi ha reso vuota, quasi come un discorso di Gianni Boncompagni. Guardo i tetti di Trastevere e penso che i tetti della vecchia Roma non sono che i capelli bianchi di una decrepita signora che cerca di nascondere gli anni sotto le terrazze dei grattacieli periferici. E penso anche che sei un cretino, Eleuterio. Non si scatena un pandemonio per un vaso di Murano che si rompe cadendo. Sempre tua. Roma Parioli, 19 febbraio 1970. Cara sempre mia, la casa che ti vide bambina e oggi ti vede adulta non noterà nessunissima differenza in fatto di sviluppo mentale. Hai ragione. Non si litiga per un vaso di Murano che si rompe cadendo. Tanto più che se non si fosse rotto cadendo, si sarebbe rotto cozzando contro la mia fronte. Hai fatto benissimo a tornare da tua madre. Se fossi rimasta a casa, probabilmente ora ti starei scrivendo da una riposante celletta del carcere giudiziario. Ciao. Ho scritto. Penso allo stupore di tuo padre il giorno che nascesti. Il fatto che una damigiana metta al mondo un'oca è un avvenimento perlomeno inusitato. Roma Trastevere, 20 febbraio 1970. Care Eleuterio, gattoide. Stavo per scrivere micione, ma pensandoci bene è più giusto come ho scritto. Mammina ha letto la tua lettera ed è rimasta malissimo. Ti ricordi quello che disse papà quel giorno che sbagliò mira e si picchiò il martello sul pollice sinistro? Beh, mammina ha detto cose analoghe, ma sensibilmente più dialettali e intercalate dal tuo nome. Per non ascoltare Eleuterio me ne sono andata in salotto e mi sono seduta sul grande divano bianco. Io penso che il divano in fondo è solo un letto matrimoniale che, stanco di stare sdraiato, si è messo seduto. Mi dispiace per il vaso di Murano, mi dispiace che si sia rotto. Sempre tua. Roma Parioli, 21 febbraio 1970. Inusitata sempre mia. Da 3 giorni mi sento una nullità. La mia intelligenza media, priva del tuo confronto quotidiano col tuo innato cretinismo, resta una povera intelligenza media. E questo mi disturba. Torna. Anche perché non riesco più a trovare le 2 poltroncine dell'ingresso e il puff della stanza da letto. Ciao. Ho scritto. La portinaia ha ritrovato le poltrone e il puff. Erano finite chissà perché sotto alcune paia di pantaloni, qualche calzino, un impermeabile, 2 cappotti, uno scendiletto e alcuni quotidiani di vecchia data. Eleuterio. Roma Parioli, 22 febbraio 1970. Caro Eleuterio, micione, sono di nuovo da te, ma tu non sei con me perché io sto in casa e tu no. Quando tornerai a casa saremo in casa tutti e due, quindi io starò con te. Ho ricomprato il vaso di Murano e l'ho rimesso sul tavolo. E io penso che il tavolo in fondo è solo un pezzetto di parquet che si è messo i trampoli. E penso anche al futile motivo che l'altro giorno ci ha fatto bisticciare. Io stavo pulendo il vaso di Murano e tu eri lì che sorseggiavi whisky. Eleuterio? Sì. Cosa fai, caro? Bevi? No. Sto tagliando il prato. Solo che per originalità lo taglio tenendo in mano un bicchiere pieno a metà di whisky. Ma come ti viene in mente di tagliare il prato in soggiorno? E poi con un bicchiere. Mi sporchi, vuoi il soggiorno, vuoi il bicchiere. Sono vivamente stupita. Io no. Io non sono stupito. Lo sarò il giorno che riuscirai a fare un discorso, non dico profondo, ma appena appena pensato. Ma che cosa vuoi che faccia uno che si porta un bicchiere alle labbra di tanto in tanto? Beve, no? Non lo so, ieri anch'io mi portavo il bicchiere alle labbra di tanto in tanto, ma non bevevo, facevo gargarismo. Vedi, cara, se la morte di un coniuge, provocata dall'altro coniuge, venisse classificata anziché uxoricidio, incidente, tu avresti già avuto un incidente. Ah, meno male che non l'ho avuto. Gli incidenti portano sempre un certo trambusto nelle famiglie. Guarda, bambina, ebbe quell'incidente della fuga di gas e ancora è agitata. Sono sempre terribili gli incidenti, Eleuterio. Hai perfettamente ragione. Se quel cretino del portiere di tua madre non si fosse accorto che c'era una fuga di gas, ora sarebbe tutto a posto. Invece se ne è accorto. E come incidente mi sembra abbastanza grave. Eleuterio, ma che dici? Semmai l'incidente era la fuga di gas. Punti di vista. Beh, io vado a comprare le sigarette. Dal tabaccaio, Eleuterio? E dove vuoi che le compri? Dal farmacista? Cretino, il farmacista non vende sigarette. Ho chiesto se andavi dal tabaccaio perché ho bisogno di sale. E il tabaccaio vende sale, il farmacista no. Anzi, sì, vende sale inglese, ma io voglio quello italiano, grosso, per la lavastoviglie, sì. Uffa. Ogni volta che esco per fatti miei devo comprare sempre qualche cosa per te. Ma cosa vuoi che sia un chilo di sale? Un chilo di sale. Beh, questo magari sì. Beh, ciao, torno subito. Ciao. Fai con comodo, Chiudi la porta. Uffa. Ah, senti, Eleuterio, già che scendi. Lo sapevo. Già che scendi. Queste terribili, mancabili parole che mi raggiungono sempre quando sto per varcare la soglia della porta di casa. Un giorno o l'altro mi uccideranno. Già che scendi, già che scendi. Che accidenti dovrei fare già che scendo? Potresti ritirare il pane dal macellaio. E da quando in qua il macellaio vende pane? Non essere ridicolo, Eleuterio. Il macellaio non vende pane, vende carne. Però ha in consegna il nostro pane. Siccome il macellaio ci doveva portare la carne, ho detto al fornaio di dare il pane a lui, in modo che portandoci la carne ci potesse portare anche il pane. Però siccome scendi tu, già che scendi, puoi passare a prendere il pane e anche la carne. Così eviti al macellaio di portarci il pane insieme alla carne. Se tuo padre quel certo infausto giorno, anziché dire sì all'ufficiale di stato civile, avesse detto sì al sergente addetto all'arruolamento volontario, oggi forse lui sarebbe una medaglia d'oro alla memoria e io senza forse scapolo felice. E non ti sentirei dire già che scendi. Perché, non scendi? Sì che scendo, subito scendo. Allora, già che scendi, di al macellaio che ti dia un po' di trippa e qualche osso. Perché? Anche oggi viene tua madre a pranzo. Eleuterio, non dire cattiverie. Mia madre non mangia ossa. È vero, non le mangia, le inghiotte sane. Eleuterio, lascia stare mia madre. Che cosa ti ha fatto di male, poverina? Che mi ha fatto di male? Ha fatto te! Eleuterio! Non solo, ma a forza di frequentare questa casa mi costringe a pagare la tassa sui cani. La gente mormora. E mi ha anche fatto multare dalla Società Protezione Animali perché dice che è disumano vestire da donna un mastino napoletano. Eleuterio, hai sorpassato il limite. Non so chi mi trattenga da reagire. Anzi, siccome non mi trattiene nessuno, reagisco. Accidentato. Per poco mi colpivi. E adesso che ho reagito, torno da mia madre. Vai, vai. E non dimenticare di portarti la museruola. Ricordo perfettamente perché abbiamo litigato l'altro giorno, ma quando rientrerai farò finta di niente. Ciao. Ciao, sei già rientrato? Sì, sono rientrato, ma riesco, ho dimenticato il giornale, scendo a prenderlo. Scendi? Sì. Eleuterio, già che scendi...